Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Con voi, come sempre, Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Come molti giornali hanno ricordato durante il fine settimana, un anno fa, si consumava la parte forse più epocale di questa crisi finanziaria che stiamo raccontando da oltre un anno, ossia il fallimento di Lehman Brothers, quarta banca d'affari di Wall Street, che dichiarò bancarotta appunto il 15 settembre del 2008, più grande fallimento finanziario della storia. Un'esposizione di debiti aveva a quel punto Lehman Brothers pari a 600 miliardi di dollari, a cui si aggiungevano 150 miliardi di obbligazioni vendute in tutto il mondo. La racconteremo questa giornata, ma anche per capire, visto che eravamo in diretta, non solo che cosa portò a un fallimento, giudicato poi da molti osservatori un errore strategico, perché diede una percezione della crisi molto più alta e molto più ansiogena, se mi passa il termine, di quanto poi non si sarebbe potuto avere. Un errore che vide il generarsi di vere e proprie ondate di panico, di mercati che continuavano a crollare di giorno in giorno di 5, 6, 7 punti percentuali. Racconteremo quella giornata, ma la racconteremo anche in una chiave così costruttiva, e cioè che cosa è cambiato da allora, che cosa si potrebbe fare di più, il tutto alla vigilia, quasi, perché sarà a fine mese, del vertice dei G20 a Pittsburgh, in cui dovrebbero arrivare nuove regole per i mercati finanziari. Alcuni l'hanno voluta chiamare la nuova Bretton Woods della finanza mondiale. Ancora sul fronte della cronaca della giornata economico-finanziaria, le borse oggi per fortuna non c'è un legame tra quello che accadde quasi un anno fa e quello che invece sta accadendo oggi. Le borse sono tutte invariate, tranne Parigi, che perde lo 0,2 come Francoforte. Londra guadagna lo 0,1, Milano appunto è invariata. Tra i titoli segnaliamo inflessione più della media, CIR meno 2,1 e Italcementi meno 1,5, Buzzi Unice meno 1,3 come Ubibanca e Mondadori. L'1,2 lo perde Monte dei Paschi e anche Ansaldo, l'1% è il calo di Intesa. Fronte opposto, Bulgari più 1,90, Telecom più 1,4, Geox più 1,2, Finmeccanica più 1%, Tenaris più 1%, Pirelli più 0,80 come Prismian. Parleremo anche delle nuove previsioni sull'andamento economico diffuse oggi dalla Commissione Europea. Devo dire che sono sicuramente peggiorative rispetto alle ultime, solo che le ultime appartenevano a primavera. Questo per far capire a tutti che in realtà i titoli di molti giornali, di molte agenzie, dicono l'Unione Europea rivede a ribasso le previsioni. Sì, le rivede a ribasso rispetto ad aprile. In realtà quello a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni è una revisione a rialzo, quindi in meglio, delle stime fatta dal Fondo Monetario, della Banca Centrale Europea e anche dall'OCSE. Tagliando la testa al toro, tutti prevedono che l'Italia a questo punto farà un 2009 con un calo del 5% del PIL e che ci sarà un accenno di ripresa nel 2010. 349-238-6666 per i vostri sms. Ci occuperemo anche dell'oro, perché da un lato continua a viaggiare sopra i 1000 dollari all'oncia, siamo a 1003 dollari in Asia, e dall'altro invece oggi si è aperta la manifestazione più importante per tutto il settore orafo. In realtà non si è aperta oggi, ma insomma sta per prendere via la manifestazione più importante, che si chiama Vicenza Oro, e questa sarà anche l'occasione per fare il punto sull'andamento di questa che viene chiamata da alcuni commodity e che secondo noi tanto commodity non è. Prosegue Vicenza Oro infatti fino a mercoledì 16 settembre. E allora le altre notizie in breve. vedo già alcuni messaggi che vogliono sapere la data esatta. Allora, avendo la differenza di fuso orario con l'America, la data esatta del fallimento di Lehman Brothers è il 14 in America, nel senso che all'1:15 di mattina del nostro 15, però non starei a sottilizzare. Insomma, un anno fa lo si può dire, un anno fa crollava per bancarotta Lehman Brothers. Eravamo vicini alla fine del mondo, scrivono alcuni ascoltatori. Sì, lo hanno detto, lo ha detto più di una persona, l'ha detto anche lo stesso ministro Tremonti in più di un'occasione, che si è temuto il rischio di Armageddon, l'ha chiamato Tremonti. Adesso ci arriviamo a Lehman Brothers. Ancora un dato invece sui mercati di oggi: il petrolio è in calo a $68 al barile. Sì, anticipavano le stime dell'Unione Europea, meno 4% l'area euro quest'anno, ma con un'uscita dalla recessione, tant'è che per il prossimo anno ci dovrebbe essere appunto una leggera ripresa. E Almunia stesso, il commissario europeo agli affari economico monetari, ha detto: si vede la luce in fondo al tunnel. Le stime esatte sono: la Germania quest'anno dovrebbe fare un meno 5,1, l'Italia meno 5, Spagna meno 3,7, Francia meno 2,1. La Francia si conferma il paese in cui la crisi si sente meno, Olanda meno 4,5, in Gran Bretagna meno 4,3%. E poi c'è il caso sorprendente della Polonia, che è il gigante dei paesi dell'est, più 1% quest'anno della sua economia. La stessa Commissione Europea però registra come in Italia, dopo una profonda recessione, sia in atto un graduale miglioramento del ciclo economico. È preoccupata invece Bruxelles per il calo degli occupati, sempre dell'area euro. Ci sono stati 702.000 disoccupati in più nel secondo trimestre del 2009 rispetto al primo trimestre del 2009, una cifra incredibile. Nell'area 27 invece è 1 milione, il numero di disoccupati in più è di 1.443.000. E per quanto riguarda l'inflazione, sostiene Bruxelles che quest'anno si farà un più 0,4%, l'Italia un più 0,9%, quindi inflazione assolutamente sotto l'1%. Dicevamo delle parole di Almunia: si intravede la luce in fondo al tunnel, ma attenzione all'occupazione e ai conti pubblici dei paesi. Per la prima volta da 2 anni, ha detto il commissario europeo, dall'inizio della crisi, la Commissione presenta delle previsioni economiche accompagnate da un certo ottimismo, ma anche da tanta prudenza. 2 years ago, Lehman Brothers was in a 2 anni fa Lehman Brothers si trovava in una grave crisi che ha dato il via a una contrazione molto seria e profonda dell'economia. 2 anni fa analizzavamo l'inizio della crisi finanziaria. Oggi, per la prima volta da allora, e in particolare per la prima volta dalla crisi di Lehman Brothers, presentiamo delle previsioni economiche accompagnate da un certo ottimismo. Allo stesso tempo, però, accanto all'ottimismo c'è anche tanta prudenza. L'economia mondiale mostra segnali crescenti di miglioramento grazie, in particolare, alle azioni coordinate adottate a livello di G20. L'economia asiatica, specialmente quella cinese, sta mostrando i dati migliori nel contesto globale. Segnali positivi per la prima volta da 2 anni vengono anche dal Giappone, Stati Uniti, Brasile e da alcuni paesi dell'area euro. Il 2009 è iniziato con dei dati rivisti al ribasso per la nostra economia, a causa di come si è concluso il 2008. Possiamo dire che chiuderemo quest'anno in una posizione migliore rispetto a quanto ci attendevamo solo alcuni mesi fa. E questo ci fa ben sperare non solo per la seconda metà dell'anno, ma anche per l'inizio del 2010. Ancora un paio di notizie, questa volta dall'Italia. Secondo la Banca d'Italia il debito è tornato a salire, il debito italiano a luglio tocca i 1.753 miliardi di euro. Le entrate fiscali hanno segnato un calo del 3,7% nei primi 7 mesi dell'anno, con una riduzione del gettito fiscale di 8 miliardi e 300 milioni. Però il fisco fa sapere, o meglio il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia fa sapere che le entrate fiscali stanno tenendo, perché tra gennaio e luglio hanno avuto un calo di quasi il 3%, meno 2,9%, Però mostra una buona tenuta dopo l'inversione di tendenza registrata a partire dal mese di marzo. Tra l'altro l'Italia, sottolinea il Ministero, è uno dei paesi in cui la flessione del gettito fiscale è stata minore rispetto ad altri e la tenuta maggiore. Tra l'altro il gettito derivante dalle iscrizioni a ruolo è aumentato, cioè dalle cartelle, del 20%, e tra l'altro dai ruoli IRES più 52% in il gettito appunto dei ruoli relativi all'imposta sui redditi delle società, più 52% più 23,4% quello dei ruoli IRPEF. Anche gli accertamenti hanno portato a un aumento di gettito pari all'1,1% sulle imposte indirette, quindi IVA, ma non solo. L'ultima notizia riguarda lo sciopero nazionale dei metalmeccanici che la FIOM ha proclamato oggi per il prossimo 9 ottobre. E allora, torniamo con la memoria un anno fa, per fortuna non siamo un anno fa, i mercati vanno molto meglio di inizio anno. Però attenzione, da allora molto è cambiato sul fronte della percezione, non così tanto è cambiato sul fronte delle regole, questo sarà anche oggetto di questa puntata. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora torniamo alla memoria al 14-15 settembre del 2008. Si veniva da una settimana, lo ricorderete, pesantissima sui mercati, cali e crolli in alcuni casi in continuazione. C'erano già stati tutto un insieme di salvataggi delle banche, di alcune banche americane, e preoccupazioni su molte altre banche. Bear Stearns era stata la prima delle banche, delle cinque banche d'affari più importanti d'America, era la più piccola a essere salvata. Era fallita nel marzo 2008 ed era finita sotto controllo di JP Morgan, e già con Bear Stearns si scoprì per esempio che il numero uno Jimmy Kane era irraggiungibile perché impegnato in tournée di bridge e partite di golf, che aveva guadagnato 159 milioni di dollari negli ultimi due anni solo di bonus. Ma insomma, si pensava che la cosa fosse limitata a quella banca d'affari prestigiosa ma dimensionalmente piccola rispetto ai grandi nomi, a Citigroup, a Goldman Sachs, a Merrill Lynch e appunto a Lehman Brothers. E proprio il salvataggio di Bear Stearns e l'aiuto mostrato per altre, o la disponibilità, l'aiuto mostrato per altri soggetti, fece ritenere a tutti che comunque l'amministrazione Bush e il suo ministro dell'economia, segretario del tesoro Paulson, avrebbero salvato anche Lehman Brothers, che già viaggiava con estrema difficoltà. Lehman in un anno e mezzo infatti aveva distrutto valore, praticamente portando la sua capitalizzazione di borsa a un ventesimo di quella che era stata, cioè l'azione Lehman Brothers era passata da $40 a 2, o meglio, la capitalizzazione di borsa era passata da 40 miliardi a 2 miliardi di dollari, aveva un debito per 613 miliardi di dollari, aveva 150 miliardi di obbligazioni in giro per il mondo, eppure si riteneva che comunque Lehman alla fine ce l'avrebbe fatta. Così invece ci raccontarono quello che capitò un anno fa i principali TG americani e britannici e mondiali. Sentirete adesso un insieme di voci, sono le voci della BBC, di ITN, dei dipendenti Lehman che escono con gli scatoloni, l'immagine della crisi, della cronaca che ci fece il corrispondente Mario Platero in diretta da New York, e degli appelli di George W. Bush, ancora presidente, e di Barack Obama, ancora candidato alla presidenza. Hello, good evening to you. The BBC has learned that the world's fourth biggest investment bank, Lehman Brothers, is near to insolvency after the US Treasury decided taxpayers' money should not be spent to bail it out of trouble. That decision is believed to have prompted potential buyers, including Barclays Bank, to walk away from any rescue deal. former employees in the city today remain shocked. The market's reeling following the collapse of investment bank Lehman Brothers. You wanted to comment about the collapse of Lehman Brothers? America's fourth largest investment bank has filed for insolvency, and around 5,000 staff in the UK, scores of whom left its Canary Wharf headquarters this morning, now fare the worst. We knew things were bad, but in a million years, no one expected it to come to this. You know what? This is about these people here that gave everything to this firm. And unfortunately, you know, it's over. So what can I tell you? Couldn't believe it could have happened. A company this size, I mean, look at the size of the building. You know, it's just like, it just could never happen. È un po', devo dirti, come essere così nel mezzo delle pagine di storia, purtroppo di una storia brutta, di una storia negativa, di una storia che ha anche un risvolto umano, perché a pochi isolati da noi, dal nostro ufficio, ci sono i quartieri generali di Lehman Brothers e abbiamo visto code di persone uscire con le loro casse perché ormai già da stamattina non hanno più il posto di lavoro, le interruzioni qui, come i nostri ascoltatori sapranno, sono immediate, non si perde tempo a discutere, arriva la lettera di licenziamento e si è fuori immediatamente, quindi c'è anche questo aspetto che riguarda la città di New York, una città che poggia per gran parte sull'economia finanziaria e che si ritrova con ondate di licenziamento che riguardano non soltanto la chiusura di Lehman. I know Americans are concerned about the adjustments. Sono consapevole che gli americani sono preoccupati a causa degli aggiustamenti a cui stiamo assistendo sui mercati finanziari. La Casa Bianca, con la mia amministrazione, si sta concentrando sugli attuali eventi. Stiamo lavorando per ridurre le turbolenze sui mercati e minimizzare l'impatto di questi sviluppi sull'intera economia. Sono stato in stretto contatto con il segretario al Tesoro Paulson per tutto il weekend. Ho apprezzato il lavoro svolto dal Tesoro, dalla Federal Reserve, dalla SEC e dalle maggiori istituzioni finanziarie, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, nel promuovere la stabilità del sistema finanziario. Nel breve termine, gli aggiustamenti sui mercati finanziari possono essere dolorosi, sia per le persone preoccupate per i loro investimenti, che per i dipendenti di alcune società. Nel lungo termine, sono convinto che i nostri mercati finanziari siano flessibili e robusti e che possano adattarsi a questi aggiustamenti. Questa mattina ci siamo svegliati con delle notizie molto serie e preoccupanti provenienti da Wall Street. Il risultato è che siamo davanti alla peggiore crisi dal tempo della Grande Depressione. Per 8 anni abbiamo avuto politiche che hanno distrutto le protezioni dei consumatori, allentato i regolamenti e la sorveglianza sul settore finanziario. Questi primi commenti a caldo del presidente di allora Bush, del candidato presidente Barack Obama, la cronaca di Mario Platero, sentite anche dalle voci che nessuno ha una definizione specifica di quello che sta accadendo. Tutti dicono, capiamo che le persone sono preoccupate, i lavoratori sono preoccupati, ma la sensazione allora, veramente lo ricorderete, era di non sapere che cosa sarebbe successo dopo Lehman Brothers, quante altre banche sarebbero fallite. Non sono state poche, ne sono fallite altre 107 di banche in America, di cui 92 solo nel 2009, nessuna però per fortuna delle dimensioni, quindi con l'effetto deflagrante di Lehman Brothers. Certo, per non fare fallire le banche più grandi, le compagnie di assicurazioni più grandi, le famose Fannie Mae e Freddie Mac, ci sono volute qualcosa come, si calcola in America, 2.000-3.000 miliardi di dollari tra garanzie e soldi buttati dentro le banche. Il costo complessivo fino adesso dell'intera crisi è di 10.000 miliardi di dollari, stima di Commerzbank. Però Lehman Brothers non è solo il fallimento di una banca, è diventato l'esempio, è il simbolo di una gestione molto criticata di una crisi, ma anche di tutto il coacervo di errori che a questa crisi avevano portato, visto che il numero uno di Lehman Brothers, storico numero uno, Richard Fold, aveva guadagnato nei 2 anni precedenti 72 milioni di dollari, 200 milioni di dollari di guadagno se si contano anche i bonus e le stock option, il tutto per fare fallire Lehman. Allora questa scheda ci racconta quella giornata. A casa, con qualche scatolone e nient'altro. senza preavviso, solo un'email con la comunicazione del licenziamento e l'invito a sgombrare la scrivania. Se per ogni evento storico esiste un'immagine che lo rappresenta e fa da spartiacque tra un prima e un poi, quella degli impiegati di Lehman Brothers con gli scatoloni sotto braccio è diventata rapidamente il simbolo della crisi finanziaria, più di tante analisi e percentuali. E dire che l'epilogo di Lehman era tutt'altro che scontato, visto che solo una settimana prima il governo statunitense salvava Fannie Mae e Freddie Mac, due giganti dei mutui in ginocchio. Ma per Lehman Brothers le cose andarono in maniera diversa ed è ancora oggetto di discussione il perché sia stata lasciata fallire. Certo, era tramontata l'ipotesi di acquisizione da parte di Barclays, ma visto il salvataggio sei mesi prima di Bear Stearns da parte di JP Morgan e quello in contemporanea di Merrill Lynch da parte di Bank of America, molti ritenevano che si sarebbe trovato un compratore anche per Lehman Brothers. Le cose non andarono così e da allora cambiò il colore della crisi. La notizia della bancarotta dell'istituto fece in pochi minuti il giro del mondo, provocando la caduta delle borse. Ma fu subito evidente la rabbia fra i dipendenti di Lehman per essere stato l'unico istituto finanziario escluso dal salvataggio. Una rabbia che crebbe ancora di più due giorni dopo, quando fu lanciato un salvagente da 85 miliardi di dollari al colosso assicurativo AIG. Nulla però servì a sgonfiare un'ondata di panico, nemmeno l'annuncio dato 10 giorni dopo dal segretario al tesoro Paulson di un piano per salvare la finanza americana da 700 miliardi di dollari. Il settembre nero per Wall Street si chiuse con la bancarotta di Washington Mutual, rilevata da JP Morgan per 1,9 miliardi di dollari, e quella di Wachovia, salvata da Wells Fargo. Una lezione forse fu tratta dall'aver abbandonato Lehman a se stessa. Quando a fine novembre Citigroup era a un passo dalla bancarotta, fu salvata con aiuti per oltre 300 miliardi di dollari. Sì, diciamo che Lehman Brothers per alcuni è stata vista come vittima sacrificale del fatto che le banche, nemmeno le banche d'affari, devono essere fatte fallire. Infatti da allora in poi tutti i vari istituti finanziari, AIG è solo il colosso più grosso, più clamoroso, ma ce ne furono molti altri, si cercò di salvarli quando non vi era un rischio sistemico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora, il passato lo conosco, vorrei sapere il futuro, scrive un ascoltatore. Avete ragione e lì stiamo arrivando. Però attenzione, è difficile leggere il futuro se non si capisce. Vi abbiamo raccontato un anno fa quelle convulse ore del fallimento di Lehman Brothers e non si capisce anche la lezione dal passato. Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Eri in onda non solo quel giorno, ma nei giorni della crisi, commentammo per primi in diretta il crollo delle borse che era arrivato un po' prima di Lehman, già si capiva che la situazione andava male, però un dato su tutti, Wall Street il giorno in cui Lehman fallisce vale ancora 10.000 punti, 10.900 punti, arriva poi a un minimo di 7.200 punti, ma lì siamo già praticamente ai minimi di marzo, adesso con tutto quello che ha recuperato siamo ancora a 9.600 punti, cioè siamo a un livello ancora sotto quello del crack Lehman. Prima domanda: come sostengono molti, fu un errore da parte di Bush e soprattutto di Paulson, che magari era più legato per storia alla Goldman Sachs, cioè rivalità tra banche, lasciare fallire Lehman, anche se l'obiettivo era spiegare al mercato che non avrebbero salvato tutti? Cioè, fu un errore col senno di poi? Penso che chi ha subito dei danni patrimoniali per quel fallimento ancora oggi dica che è stato un errore, per cui bisogna sempre vedere da quale ottica ci poniamo. Naturalmente tutti quelli che sono stati danneggiati da quella che è stata la più grande bancarotta finanziaria, cioè una società di servizi finanziari della storia, certamente ancora oggi piangono per quella decisione del governo americano di lasciarla fallire. Certamente siamo qua, il settore finanziario esiste ancora, la borsa continua a salire e a scendere, il che vuol dire che quel rischio, quella paura di una crisi irreversibile scatenata dalla morte di Lehman, dalla fine di Lehman, era un po' sovradimensionata. Io direi questo, certamente se Lehman non fosse fallita avremmo probabilmente avuto dei mercati più incerti, perché ci sarebbe stata sempre la sensazione di un pericolo di cui non si conosce la direzione, da quale parte può venire, da quale società può venire. È vero che sono state salvate società che erano anche più compromesse, probabilmente come situazione patrimoniale e finanziaria di Lehman Brothers, ma sotto un certo profilo possiamo dire che quel fallimento ha dato un segnale importante anche ai mercati che la responsabilità, l'accountability, come dicono gli americani, è un principio comunque resta importante. Quindi mi sembra di capire che tu ritieni che tutto sommato non sia stato, diciamo, un errore far fallire Lehman Brothers, contrariamente a quanto dicono altri osservatori che dicono no, da lì si scatenò un'ondata di panico tale per cui si diede la sensazione che il sistema stava venendo giù e quindi ci siamo beccati anche delle conseguenze di questa malattia peggiori di quanto già non fossero le conseguenze intrinseche alla crisi dei mercati stessi. Io penso che sia stato molto doloroso, è stato molto duro, è stato uno shock sicuramente veder fallire una società come Lehman Brothers, che era presente con le sue varie funzioni, ma come consulente di tutti i grandi governi mondiali, ad esempio nelle amministrazioni per i derivati, parliamo anche di questo, quindi sicuramente lo è stato. Però ripeto, il fatto che è fallita, c'è stato uno spezzatino, gli asset migliori sono stati ricomprati da altre società, oggi siamo qui e Wall Street in fondo, malgrado la crisi che ha attraversato in questo anno, sta tornando verso quei livelli pre-Lehman, che ricordo erano livelli che erano considerati sopravvalutati già da allora. Io credo che il sistema abbia reagito grazie anche a tanti aiuti che sono arrivati dalle banche centrali, dai governi e in generale anche dalle autorità di vigilanza dei mercati. Veniamo alla seconda domanda che tu già stavi anticipando. A mio avviso, oltre che dare la sensazione all'uomo della strada di che cosa fosse questa crisi, perché quando vedi gli impiegati di Wall Street, impiegati di lusso, che escono con gli scatoloni, tutti hanno capito che qualcosa di grosso stava capitando, anche chi si disinteressa di borsa, di finanza e di queste amenità. Però, a mio avviso, con la crisi Lehman si è capito anche che cosa si intenda per finanza globale, perché un conto è parlarne e un conto è vederla sulla propria pelle. Lehman Brothers aveva 150 miliardi di obbligazioni, cioè di prestiti che aveva richiesto, emettendo obbligazioni che erano in tutto il mondo. In Italia abbiamo scoperto che ce l'aveva il Fondo Commercio dei Metalmeccanici, il Fondo Pensione, ce l'aveva la Banca d'Italia, c'erano altri istituti. Ecco, forse Lehman Brothers ci ha fatto capire purtroppo quanto interrelata sia la finanza a livello mondiale. Certamente, ormai, quando parliamo di mercato globale, l'industria dei servizi finanziari ha globalizzato se stessa prima ancora che l'industria manifatturiera, perché è stato sempre più facile collocare prodotti finanziari piuttosto che ad esempio automobili. Questo è un altro paradosso che con il caso Lehman è venuto a galla. Però io direi una cosa sostanzialmente, non è che dobbiamo pensare che la globalizzazione della finanza, Lehman è lo specchio della globalizzazione della finanza. Lehman è probabilmente una figlia della globalizzazione della finanza, inteso in che modo? Cioè, quando siamo in presenza di gruppi finanziari che hanno una ramificazione globale, serve una vigilanza globale. Non ci si può più affidare soltanto ad un controllore, perché se quel controllore è distratto, tutto il resto del mondo paga il prezzo. E qui arriviamo all'ultima parte di questa ricostruzione. Da un lato con Lehman saltarono gli schemi dei geni della finanza, non li chiamammo i geni in gessato e gemelli, cioè gente che ti trattava sempre con una certa alterigia e arroganza perché riteneva di avere i trucchi segreti, i misteri, diciamo, algoritmici della finanza mondiale, ma dall'altro si rimisero in discussione, e ancora adesso lo sono, tutte le politiche di remunerazione, dette in una parola gli stipendi dei manager. Richard Fuld, che ha guidato la Lehman Brothers fino alla sua bancarotta, oltre che aver guadagnato 200 milioni di dollari tra bonus e stock option, nella sua carriera professionale, sì. Così si giustificò di fronte alla Camera americana il 7 ottobre 2008, quindi a nemmeno un mese dal fallimento di Lehman Brothers, e giustificò anche in questo modo il perché dei suoi compensi, cioè lui guadagnava 40 milioni di dollari all'anno più tutto il resto. Sentiamo Fuld. We had a long dated compensation system. Look, I am not proud of the fact. Avevamo un sistema di remunerazioni ben rodato. Non sono orgoglioso del fatto che ho perso così tanto denaro, ma è stato dimostrato un fatto, e cioè che il nostro sistema di remunerazioni funzionava. Ripeto, non sono orgoglioso di questo, ma quando la società ha iniziato ad andare male, io ero il maggior azionista singolo. Non mi aspetto che siate dispiaciuti per me. Voglio però sottolineare che il sistema ha funzionato. Non abbiamo ingannato i nostri investitori, lo nego fermamente. Ho fatto il meglio che potevo, date le informazioni a disposizione. Abbiamo compiuto azioni che credevamo assolutamente appropriate. Come tante altre istituzioni finanziarie, anche Lehman Brothers è caduta in questo tsunami finanziario. Voglio essere molto chiaro su un punto. Mi assumo completamente la responsabilità delle decisioni e delle azioni prese. In base alle informazioni disponibili, credo che le decisioni e le azioni intraprese siano state sia prudenti che appropriate. Nessuno di noi ha la capacità di portare indietro le lancette dell'orologio, ma con il senno di poi, se mi chiedete se avrei fatto le cose diversamente, rispondo di sì, avrei agito diversamente. Lehman Brothers è stata minata da molti fattori destabilizzanti. Il crollo del mercato immobiliare, false voci, abbassamenti di rating da parte delle agenzie, calo di fiducia della clientela. Ripeto, questa non è solo la storia di Lehman Brothers. È una storia diventata oramai troppo familiare. È troppo tardi ormai per Lehman, ma il governo è stato costretto a cambiare le regole in modo significativo e ora fornisce il sostegno a diverse istituzioni. La maggior parte del mio compenso veniva sotto forma di azioni e la maggior parte di quelle azioni erano in mio possesso fino al momento del fallimento. Riguardo la cifra di 500 milioni di dollari come mio compenso nell'arco di diversi anni, credo che non sia giusta. Stiamo parlando di 60 milioni di dollari, sebbene sia ancora una cifra molto alta. Credo che complessivamente il totale sia di poco meno di 250 milioni, una cifra comunque molto alta. E su questo, diciamo che 200 milioni di dollari siano una cifra alta come guadagno per un manager, penso che siamo tutti d'accordo. Alessandro Praterotti, allora, abbiamo sentito le parole dell'ex numero uno di Lehman Brothers dire vabbè, dopo di noi anche il governo americano si è accorto che non poteva far fallire AIG, Washington Mutual, doveva farla comprare, Fannie Mae, Freddie Mac, negli stessi periodi le hanno salvate. Ma questa fa parte della polemica, insomma, di chi è rimasto vittima rispetto a chi non è rimasto vittima. Le prime cinque banche di Wall Street quest'anno hanno già messo da parte 61 miliardi di dollari da distribuire sotto forma di bonus ai manager. Solo Goldman Sachs ne ha messi da parte 11 miliardi e mezzo. Gli stipendi dei manager inglesi sono aumentati nell'ultimo anno del 10%. Tornano gli investimenti in prodotti finanziari complessi, alcuni dicono tossici, altri dicono scuri, tutti dicono rischiosi. Possibile che dopo un anno non sia cambiato niente? Alcune cose sono cambiate, quelle probabilmente che sono state più additate all'opinione pubblica come le principali responsabili, penso ad esempio a quello degli stipendi, probabilmente anche aver demonizzato gli stipendi come i principali responsabili della crisi della finanza mondiale è stato un errore, perché tutti si sono concentrati su un bersaglio grosso e sicuramente appariscente che colpisce la fantasia dell'opinione pubblica, dimenticando invece che i problemi grandi erano quelli dell'eccesso di leva delle banche, erano quelli di fare profitti con il trading, cioè operando in borsa. Su questi terreni ancora non si è fatto nulla, però si discute di stipendi ancora, e poi la risposta è quella che hai dato tu prima, leggendo con quelle cifre su quanto è stato già accantonato dalle grandi banche americane per pagare gli stipendi. Ma io penso che il problema di fondo sia questo: non esiste a questo momento un modello alternativo nella retribuzione dell'industria dei servizi finanziari a quello che conosciamo. Si è parlato in questi giorni, ne hanno parlato i governatori delle banche centrali, i ministri, della possibilità, ma di tutto il mondo, non solo in Italia, dell'agganciare le retribuzioni dei manager al valore creato. Ma questo si potrebbe dire facciamolo anche nella pubblica amministrazione, facciamolo nei governi. La scorsa settimana il governo italiano avrebbe dovuto discutere in Consiglio dei Ministri un tetto agli stipendi, ai premi delle industrie pubbliche. Non mi sembra che sia stato fatto. È molto difficile in questo momento andare ad agire su quel terreno. Certo, ripeto, fa sicuramente impressione sentire queste cifre a 6 zeri su 60, 200, 100 milioni, però oggettivamente non esiste ancora un modello alternativo di retribuzione in grado di motivare e trattenere le risorse migliori di un settore che, come giustamente dici te, è rimasto ancora legato a un sistema di finanziamento, perché parliamo di questo, cioè di finanziarsi, che è ancora quello pre-Lehman. Non abbiamo ancora un modello diverso di prodotti finanziari per cambiare o per rivoluzionare quello che succedeva già prima di Lehman. C'è chi dice, visto che fra poco ci sarà a fine mese a Pittsburgh il vertice dei G20, che l'unica soluzione è un'autorità, una Consob, una SEC mondiale. Non si vede però nessuno straccio di accordo tra i vari paesi, l'America, la Germania, la Francia, perfino in Europa Francia e Germania hanno discusso a lungo su che ruolo deve avere la Banca Centrale Europea e non sono d'accordo. No, assolutamente. Gli Stati Uniti non permetteranno mai ad autorità di altri paesi di regolamentare il proprio mercato. Questo bisogna tenerlo presente, e chiunque dica il contrario dice una falsità, perché gli Stati Uniti non lo permetteranno mai. In Europa vediamo già che ci sono più anime. Gli inglesi, che sono sostanzialmente isolati rispetto ai francesi e ai tedeschi, che si muovono più in linea. C'è la Francia che sta chiaramente tentando di prendersi una centralità nella normativa sui regolamenti, anzi nella regolamentazione dei mercati finanziari. Questo lo sta facendo come attacco diretto alla Gran Bretagna. Quindi vediamo che è molto difficile ancora arrivare ad un'idea comune di vigilanza. Quello che sicuramente è più fattibile è creare delle condizioni, e questo lo possono fare sicuramente i ministri europei, si può fare in tante sedi, sia europee che anche in sedi internazionali, di coordinamento delle autorità, di definizioni di alcuni gruppi finanziari che possono rappresentare un rischio e gruppi che devono essere controllati nella loro operatività. Questo per ora è l'unico, a mio avviso, l'unico traguardo che è raggiungibile senza, ripeto, creare delle gelosie fra paesi che rischiano di compromettere tutto. Quindi degli osservati speciali, degli segnalati speciali, chiaramente con tutto quello che può significare questo per un soggetto finanziario, in cui le varie autorità a livello europeo, a livello americano, sappiano che quel gruppo finanziario va controllato e si scambiano informazioni per capire dove va a mettere i soldi, che rischi si accolla con l'effetto leva. Quanto è esposto in tutte le varie controllate, e poi il tema dei paradisi fiscali. Comunque, una cosa la possiamo dire, adesso poi passiamo alle informazioni per chi è in viaggio, e alla borsa, che i mercati hanno recuperato non tutto ma abbastanza, che l'Armageddon non c'è stato e che purtroppo però le soluzioni, le regole, i paletti, i vaccini a questa epidemia non si sono ancora trovati. Vedremo se arriveranno a fine mese. Da Pittsburgh, grazie intanto a Alessandro Prateotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, rispondiamo ad alcuni messaggi, poi altri messaggi risponderemo al dopo le 18. Il danno più grande l'ha fatto la paura e la mancanza di regole. Sì, è vero, ma stiamo cercando di ragionare su che cosa si è fatto nel frattempo, e mi sembra poco, a detta di tutti. Molti di voi danno ragione ad Alessandro Prateotti, che ha detto: ma attenzione a concentrarsi solo sugli stipendi dei manager, il vero problema è che le banche d'affari non possono investire in maniera così rischiosa. Con la leva vuol dire che tu investi uno ma stai scommettendo su 20. Altri temono che si stiano ricreando le situazioni del 2008, perché i tassi sono bassissimi, è pieno di liquidità e le borse hanno corso troppo rispetto all'economia. Siamo d'accordo, però non è che posso svegliare il gufo adesso, a inizio settimana. Ancora, altri invece ritengono che lo stipendio sia stato il problema di questi manager. Io su questo starei attento a definizioni un po' troppo affrettate, fermo restando che è un tema delicatissimo. Altri ritengono che con Lehman si è colpito vecchio motto di Mao: punirne uno per educarne 100. Sì, è stata una punizione che è costata molto anche a tutti gli altri, non solo al punito, però è un'interpretazione. La borsa adesso con Livia Zancaner. Livia, buonasera. Buonasera. A un anno da Lehman Brothers le borse non se ne accorgono, tanto loro continuano a viaggiare con logiche che sfuggono a noi mortali, e infatti Parigi meno 0,1, Francoforte invariata, Londra più 0,1, Milano invariata, l'America perde lo 0,26%. Andiamo direttamente ai titoli. Oggi Geox e Bulgari, più 1,86 Geox, più 1,80 Bulgari. Sì, allora Bulgari in realtà ha chiuso ancora in territorio positivo dopo il rialzo di venerdì scorso, quando le azioni erano state premiate dall'upgrade di Bank of America Securities, che ha valsato il giudizio da underperform a buy. Per quanto riguarda invece Geox, allora oggi non vi sono novità particolari, quindi non vi sono né notizie da parte della società né da parte delle banche d'affari, ma bisogna sottolineare che nelle scorse giornate il titolo era stato comunque molto penalizzato, e Goldman Sachs aveva abbassato la raccomandazione da comprare a vendere su Geox. Altri titoli oltre a Bulgari e Geox, Prysmian. Molti di voi vogliono sapere cosa è successo, perché oggi ha recuperato, è a 13,21 euro, dopo cali forti, seguiti anche insomma, allo stop, all'arresto delle ipotesi con Draghi oggi. Sì, allora dopo il calo di venerdì, quando le azioni avevano ceduto il 3,6% circa, oggi invece Prisman ha chiuso a più 0,76%. Allora le azioni hanno beneficiato della revisione al rialzo del target di prezzo da parte di Citigroup, che ha confermato raccomandazione comprare e ha rivisto appunto il prezzo obiettivo al rialzo da 10,7 a 15 euro. Allora secondo gli analisti della banca d'affari, infatti, proprio nell'ottica dello stop alle trattative con Draca, Prysmian è interessante ma anche da sola, e quindi è in grado di perseguire con una strategia appunto stand-alone, quindi senza acquisizioni, tant'è che gli analisti hanno ritoccato leggermente al rialzo le stime 2009-2011. Inoltre, secondo qualche operatore, sfumata l'acquisizione dell'olandese Draca, la società potrebbe anche prendere in considerazione una serie di altre ipotesi per un'aggregazione. Altri titoli. Finmeccanica oggi, abbiamo dato la notizia, anche ha vinto una commessa, l'ha vinta la controllata americana di RS Technology da 2 miliardi, e immagino che sia questo il motivo per cui il titolo guadagna uno 0,7%. Incerti invece altri gruppi. Fiat alla fine riesce a chiudere in positivo più 0,3%. Più deboli oggi molte banche, penso a Monte dei Paschi che ha perso l'1,3%, UBI Banca che ha perso l'1,1%. Intesa ha perso l'1%, Generali lo 0,2%, visto che ci chiedete anche di un incremento chiuso invariata. Allora le banche a partire da Intesa, e poi chiudiamo con Telecom. Sì, allora Intesa San Paolo oggi appunto ha ceduto lo 0,9% in un comparto bancario che è stato comunque negativo a livello europeo. Allora per quanto riguarda l'istituto guidato da Corrado Passera, allora bisogna sottolineare che si è trattato più che altro di realizzi dopo il balzo di venerdì. Infatti la scorsa seduta le azioni erano state spinte dalle indiscrezioni, che poi sono state bene o male confermate, relative alla vendita di Banca Fideuram, tra cui pretendenti figurerebbe l'ex Sor della famiglia Agnelli. E ne abbiamo infatti parlato. Su Telecom invece? Allora, per quanto riguarda Telecom, allora la società ha fatto meglio del settore telecomunicazioni in Europa, che infatti ha chiuso leggermente sopra la parità. Allora le azioni oggi hanno beneficiato del giudizio positivo di Deutsche Bank, che ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo da 1,35 a 1,44, e Mediobanca ha confermato raccomandazione outperform. In realtà il mercato è comunque in attesa di novità sul rinnovo del patto di Telco, che è il socio di riferimento di Telecom Italia. Infatti i soci della holding dovranno esprimersi sul rinnovo del patto entro il 28 ottobre, e quindi sul mercato continuano a girare vari rumor e voci, anche se in realtà il patto dovrebbe essere rinnovato senza grandi colpi di scena. Staremo a vedere. Intanto grazie a Livia Zancaner. Molti messaggi che dicono: ma adesso tutte le raccomandazioni delle banche sono di comprare azioni. Ne parliamo dopo il GR, e continuiamo anche a raccontare le lezioni o le non lezioni di questo anno dal crack di Lehman Brothers. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora, proprio durante il GR ha iniziato a parlare il presidente americano Barack Obama, e sta parlando di Lehman Brothers, o meglio delle lezioni che l'America ha imparato, ma anche delle ferite che ha generato un anno fa il fallimento di Lehman Brothers. Ricordo, tema di apertura anche in questo programma. Fra poco ve lo faremo ascoltare. Barack Obama ha appena detto che i mercati vanno verso la normalità, ma non c'è nulla di cui compiacersi, perché si viene da un periodo difficilissimo. La fine del tunnel di questa crisi è più vicina, però è importante che la storia non si ripeta, non si deve tornare a quei giorni fatti di eccessi. Vedo che molti di voi anche scrivono su questo tema, dicono: ma attenzione, qui si sta in qualche modo tornando a fare lo stesso lavoro che si faceva un anno fa nelle banche d'affari, gli strumenti utilizzati sono gli stessi, ancora non si sa quanta roba tossica sia ancora in circolazione, non è detto sapere che regole e quali punizioni, tra virgolette, sto sintetizzando i vostri messaggi, verrebbero affibbiate adesso rispetto a un anno fa? Cioè, perché non si dovrebbe tornare, o meglio, si sia più al riparo dall'ipotesi di tornare a un altro crack? È una bella domanda. Su molti di questi punti sono anche personalmente d'accordo. Cioè, poco è stato fatto sulle regole. C'era obiettivamente da mettere in sicurezza il sistema finanziario mondiale, e quella è stata la prima priorità, che è costata, lo ripetiamo, secondo le stime Commerzbank, circa 10.000 miliardi di dollari a livello mondiale. Ora è la fase più difficile, perché poi si fa presto a dimenticare, la fase in cui si deve in qualche modo elaborare un insieme di regole, controlli e controllori su base mondiale, visto che la finanza globale e globalizzata è. Adesso vi arriviamo, mentre anticipo subito che l'approfondimento sul tema dell'oro, in coincidenza con il Salone di Vicenza Oro, lo facciamo domani, così avremo anche più spazio per parlare di oro e di questa presenza dei cinesi anche nel mercato dell'oro, come segnalano molti ascoltatori. Dicevamo del presente. Oggi Corrado Passera, consigliere delegato di Intesa San Paolo, ha ricordato come i segnali di assestamento del sistema economico finanziario continuino e occorre a questo punto accelerare la ripresa. Il mondo ha tenuto, abbiamo rischiato che la diga crollasse, che una recessione grave diventasse depressione, il mondo ha reagito, hanno reagito le banche centrali, i governi l'hanno fatto in maniera coordinata, certo l'impatto sull'economia e sull'occupazione è stato molto forte ed è la ragione per cui dobbiamo dare priorità assoluta al riavvio della crescita. Però il mondo ha tenuto. Certo, vedere 22 milioni di disoccupati in Europa, senza tener conto dei sottoccupati e di coloro che addirittura non cercano neanche più lavoro, dà un senso di preoccupazione e quindi di grande responsabilità. Solo riavviando la crescita verranno assorbiti, ci vorranno tassi di crescita ben superiori allo 0, come adesso si pensa di avere per gli anni che vengono, e quindi un po' la responsabilità di tutta la classe dirigente del mondo, sicuramente europea, è quella di attivare meccanismi per alzare questo livello e creare occupazione. La crisi sarà finita quando chi ha perso il lavoro lo avrà ritrovato, scrive un ascoltatore. In questo momento mi sembra un'efficace sintesi, perché poi la crisi per la gente normale è la crisi del lavoro, la crisi dei consumi, la difficoltà in busta paga, non è quella, diciamo, dei grandi manager americani che hanno visto dimezzato o ridotto a un decimo il valore delle loro azioni e dei loro bonus. Corrado Passera faceva riferimento ai disoccupati. È di oggi la notizia diffusa da Bruxelles che nel secondo trimestre del 2009 in Europa ci sono creati 700.000 disoccupati in più solo nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre. Nell'Europa 27 siamo a 1.443.000 persone, 20 milioni la cifra complessiva dei disoccupati a livello europeo. Sempre su Lehman Brothers oggi è arrivato il commento del banchiere per definizione a livello europeo, mi riferisco a Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, il quale ha detto in sostanza: beh, anche se si fosse salvata Lehman Brothers, la crisi non si sarebbe potuta evitare, cioè non sarebbe cambiato pressoché nulla. Venimmo a sapere del fallimento di Lehman Brothers nel corso del weekend. Di conseguenza si diffuse in tutti noi il sentimento che bisognava prepararsi a qualcosa di veramente grande. Lehman è stata la causa scatenante, ma poteva benissimo esserlo un'altra banca. Lehman poteva essere salvata, in questo caso non sarebbe stata salvata AIG e si sarebbe verificata comunque la stessa cosa. Così come se fossero state salvate entrambe, sarebbe stata un'altra entità a creare problemi. Credo che la cosa più importante sia riconoscere che vivevamo in un momento altamente instabile. E quindi, se vogliamo giocare a chi ritiene che fu un errore far fallire Lehman Brothers e chi ritiene invece che no, non si poteva fare altrimenti, Jean-Claude Trichet si iscrive nel gruppo dei secondi, cioè chi dice no, anche salvando Lehman Brothers non sarebbe cambiato molto, la crisi era già avviata. Professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa, buonasera. Buonasera a lei. Allora, fermo restando che lei per primo ci raccontò questa crisi prima ancora che scoppiassero tutti i buboni che abbiamo visto e prima ancora che Lehman chiudesse i battenti. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, le farò ascoltare a lei e agli ascoltatori chiaramente un passaggio di quello che Barack Obama sta dicendo adesso, praticamente sta ricordando le elezioni del 15 settembre. E poi vorrei capire intanto lei a quale dei due partiti si iscrive e se veramente ritiene che più delle Torri Gemelle la nostra vita come cittadini, diciamo, di un mondo globalizzato si è cambiata dopo il crollo, in questo caso non fisico per fortuna, della torre di Lehman Brothers. It was one year ago today that we experienced just such a crisis. As investors and pension holders watched with dread and dismay, and after a series of emergency meetings, often conducted in the dead of night, several of the world's largest and oldest financial institutions had fallen, either bankrupt, bought, or bailed out. Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, Washington Mutual, Wachovia. A week before this began, Fannie Mae and Freddie Mac had been taken over by the government. Other large firms teetered on the brink of insolvency. Credit markets froze as banks refused to lend. Quello che sta ascoltando Barack Obama nel suo discorso, nel discorso che sta tenendo alla Federal Hall di New York, seduti in platea oltre al sindaco di New York Michael Bloomberg, il segretario del tesoro Timothy Geithner, il presidente amministratore delegato di UBS America Robert Wolf, tutti, diciamo, i più importanti vertici bancari. E Barack Obama ha appena ricordato, un anno fa abbiamo sperimentato che cosa vuol dire una crisi delle proporzioni di quella attuale. Lo abbiamo sperimentato con il fallimento di Lehman Brothers. Dopo quel fallimento, dopo molti incontri notturni, altri istituti sono falliti o sono stati salvati. Lehman Brothers da un lato, Merrill Lynch, Fannie Mae, Freddie Mac. Il mercato del credito si congelò. Barack Obama ha appena ricordato come in soli 3 mesi furono bruciati 5.000 miliardi di dollari. Non venivano prestati soldi alle famiglie, alle imprese, ma neanche le banche, lo ricorderete, tra di loro si prestavano soldi perché nessuno si fidava dei conti delle altre. E poi un passaggio che ha appena ricordato Barack Obama: attenzione, sfortunatamente ancora adesso non tutti negli ambienti finanziari americani stanno al gioco. C'è chi ha scelto di ignorare le elezioni di Lehman Brothers e il suo clamoroso fallimento esattamente un anno fa. Invece di imparare da queste elezioni, ha aggiunto Obama, e da come ci si è piano piano risollevati da questa crisi, alcune banche lo fanno soltanto a loro rischio, ma mettono in pericolo la nostra nazione. Professor De Aglio, prima domanda, poi arriviamo anche a alcune considerazioni di Barack Obama. Peggio dell'11 settembre, il 15 settembre 2008? Direi per l'economia senz'altro sì. L'11 settembre si inseriva in una moderata crisi congiunturale, la rese un po' più lunga, ma si parlava di meno 0,5%. Ha cambiato la vita del cittadino americano, ma fuori dall'America molto poco. Invece la caduta di Lehman Brothers ha cambiato la vita di tutti i cittadini del mondo, si può dire, anche quelli che non avevano mai sentito il nome di Lehman Brothers. Diciamo che la depressione al quale è associato questo fallimento viaggia adesso nell'ordine del 5%, quindi 10 volte tanto. Seconda domanda: è stato un errore far fallire Lehman Brothers? Perché adesso Obama sta ricordando, lo ha fatto pochi secondi fa in un altro passaggio, Wall Street stia attenta, non verremo a salvarla, però sta ricordando le lezioni apprese da quel fallimento. C'è chi dice che ottenne un effetto anche peggiore del rimedio che si sperava di avere, cioè Bush e Paulson volevano dare un messaggio a tutti i mercati: attenzione, non vi salveremo tutti, c'è una regola del mercato per cui se tu non stai sul mercato salti per aria. A molti sembra che in realtà in questo modo, anche per l'immagine di questi scatoloni, dei dipendenti con gli scatoloni, si scatenò una vera e propria ondata di panico sui mercati, ma non solo. Diciamo questo: se si fosse salvato Lehman Brothers la crisi sarebbe stata più controllabile, ci sarebbe stata lo stesso l'ingresso degli stati nella finanza era comunque inevitabile, ma sarebbe stato più ordinato, quindi probabilmente si sarebbero evitati i picchi della discesa di borsa che è arrivata fino a 6.500 del Dow Jones, però insomma, se noi guardiamo in campo lungo, fallita o non fallita, la crisi sarebbe venuta fuori lo stesso. Quindi in maniera più ordinata, ma non c'era niente da fare. E in effetti Wall Street, che già aveva perso parecchio quel 15 settembre di un anno fa, da allora passò da 10.600 punti a 6.000 qualcosa, cioè perse il 40% secco fino a marzo, poi tornata a recuperare, adesso la troviamo di nuovo in quota 9.500 punti, 9.600 punti. Terza domanda, lei già vi accennava, uno dei risultati di Lehman, usandola come così momento epocale, è stato l'ingresso a gamba tesa, a pie pari, dei governi per salvare la parte sistemica della finanza, cioè per non avere le file di clienti davanti, le file di clienti davanti a Northern Rock come si ebbe in Gran Bretagna, per evitare il panico da chi andava a ritirare i propri depositi. Noi stessi ricevevamo molte sms che chi dicevano: beh, dobbiamo chiudere il conto in banca, dobbiamo ritirare i risparmi. È stata la fine del liberismo, Tremonti direbbe mercatismo, che ha connotato gli anni 80 e soprattutto gli anni 90? Direi assolutamente sì, anche se una parte della finanza non se n'è ancora accorta e quindi continua a fare gli stessi giochi di prima. Quindi quando oggi qualcuno scrive che le banche sono in condizione peggiore di un anno fa, non ha tutti i torti, perché i meccanismi, sia pure su scala per il momento ridotto, continuano come prima. Cioè, la finanza internazionale non sembra saper fare altro. Sa soltanto dire dei no ai bonus dei manager, dei no a qualunque forma di regolazione, e quindi spera sempre che basti un gioco di prestigio per cui tutti hanno fiducia, se tutti hanno fiducia si tira avanti. E questo è vero, ma si tira avanti per un mese, sei mesi, e poi i problemi tendono a ripresentarsi. Quando le dice i giochi di prima, che poi è la frase che ha usato anche poco fa Barack Obama, a cosa si riferisce? Cioè all'utilizzo della leva, quindi con... all'utilizzo della leva, alla creazione, vorrei dire, parossistica di prodotti derivati, al fatto che i prodotti derivati sono 100 volte a uno, diciamo, i prodotti veri che rappresentano qualcosa di reale. Quindi alla creazione di questa enorme economia di carta, la quale ha molti vantaggi se tenuta sotto controllo, ma se non è tenuta sotto controllo è pericolosissima, come abbiamo potuto purtroppo vedere. Perché, vedremo cosa capiterà a Pittsburgh al G20 di fine mese, ma insomma, perché i governi dei vari stati sembrano in ritardo, sono stati molto veloci, va detto, nel salvare il sistema finanziario, nell'evitare la crisi sistemica? Sono un po' più indecisi e lenti nel trovare regole condivise, autorità di vigilanza o perlomeno scambi di informazioni, controlli incrociati, regole proprio sull'utilizzo di certi strumenti finanziari? Ma io penso per due motivi. Uno è che insomma, a nessuno fa piacere vedere il proprio sistema finanziario che affonda. Quindi la prima idea è: lo teniamo su, perché altrimenti abbiamo, come lei diceva prima, le cose davanti alle banche. Se poi le banche non danno i soldi, ci sono gli assalti ai supermercati, insomma è inutile che stiamo a nasconderci dietro un dito. Quindi i governi tendono comunque a intervenire, quindi in linea di massima questa è la cosa essenziale. La seconda cosa è che questi governi sono comunque frutto di un clima culturale in cui la finanza è una cosa buona, anzi ottima. Quindi in realtà non hanno, tranne pochissimi, nessun intento, diciamo così, punitivo, ma punitivo è una brutta parola, nemmeno di castigatorio, correttivo di questi, no? E quindi io vedo questo Obama molto solo, con un Parlamento che non gli passa o fa difficoltà a passare la riforma sanitaria, la finanza che si chiude a riccio e gli dice: noi vogliamo pagare i manager come prima e nessuno guardi dentro i nostri conti. Insomma, è una situazione molto pesante in cui c'è una caratteristica generale di miopia, quindi non si sa bene cosa costruire al di là di un sistema che crolla. Di carte e di denaro appunto fittizio. Lei in un pezzo oggi sulla stampa però dice che alla fine, dell'ultima domanda che ho per lei, alla fine di questa crisi il portato è anche che noi siamo entrati in un'economia più sobria, i prezzi dei generi alimentari sono calati, stiamo più attenti a quello che spendiamo, magari lo spendiamo anche con maggiore qualità. Amaramente, ma potrebbe essere un vantaggio di questa crisi per chi non ha perso il posto di lavoro, chiaramente. Direi di sì, direi che generalmente dalle crisi nascono poi le cose buone, mentre invece non nascono quasi mai nelle fasi espansive, proprio perché la gente deve inventarsi qualcosa per mangiare, diciamo così, anche se qui mangiare in senso molto lato. E mi pare che proprio nei mesi della caduta di Lehman si sia rotta qualcosa nel giocattolo, questo giocattolo di consumi molto raffinati, molto edonistici, di questa pubblicità che ti dice tu paghi, quindi hai diritto ad avere il meglio, hai diritto alle cose più superflue, hai diritto alla raffinatezza, eccetera. Di colpo, improvvisamente, in quel settembre lì, la gente che doveva cambiare la macchina dice no, ma prendo qualcosa di più piccolo oppure non la cambio. E lo stesso è andato per tutti i beni di consumo durevole, lo stesso è andato per il vestiario, eccetera. E le tracce di questo ci sono ancora, non solo, ma mi pare di vedere ai limiti, ai margini dell'economia di mercato, delle iniziative di base spontanee che sono da guardare con interesse, perché sembrano un pochino usare un pochettino di mercato e tanto non mercato, no? Quindi scambi in natura, gruppi d'acquisto, eccetera, eccetera. Staremo a vedere se almeno uscirà qualcosa di buono da questa crisi e, io ripeto, anche e soprattutto le regole. Non si può ripreparare il terreno per ritrovarsi fra 10 anni, o 5 anni, o 4 anni a commentare la stessa cosa. Grazie intanto a Mario De Aglio in collegamento con noi. Grazie a voi. 11 settembre 2001 Torri Gemelle, 15 settembre 2008 Lehman Brothers, ma non sarà che settembre porti un po' di sfiga, chiede un ascoltatore, non lo so, direi di no, e comunque diciamo per forza di no perché siamo appena a metà settembre. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani per un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi.